oggi abbiamo con noi il Remo Ansovino Trio, e dal suo ultimo album ne parleremo dopo. Iniziamo subito con la loro musica, iniziamo con un brano che tornerà nell'ultimo album, che si chiama Igloo, e questo pezzo si chiama Attorno al Fuoco. Sono con noi in studio e suonano quindi dal vivo.